e le tue orecchie intente alla preghiera innalzata in questo luogo. Ora levati, o Signore Dio, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti, o Signore Dio, si rivestano di salvezza e i tuoi fedeli esultino nel bene. Signore Dio, non respingere la faccia del tuo consacrato. Ricordati i favori concessi a Davide, tuo servo.